queste parole sprecate che sento, leggo ogni giorno anche se non volendolo. Persone più sole che sperano che ad altri piaccia o almeno commentino. Poi se si vedono neanche si parlano, neanche un saluto. Con l'agenda piena di impegni, in cambio una vita ricolma di vuoto assoluto. Tu dimmi davvero che cerchi, cosa ti manca, cosa vorresti. Viviamo incerti, aperti come se mi cerchi da completare per sentirci diversi. È la tua esistenza o la tua vita, ogni esperienza sfiorata con le dita. Magari ti sfugge dalle mani o invece travolge e sconvolge tutti i piani. Cerchiamo il sole come girasoli, talvolta ci troviamo a girare da soli. Giochiamo a carte col futuro e se qualcosa va storto speriamo che poi qualcuno ci consoli. Comunicare le emozioni non è così semplice, non è sempre facile. Può restarti tutto dentro, puoi mentirti e dirti che era inevitabile, ma non ha senso. In fondo lo sai quando ti stai mentendo, non è lo stesso. Quando la paranoia prende sopravvento, sai che siete attratti a vicenda. Ti senti inadatto, tu pensa. I colori più vari sono straordinari, vicini fanno la differenza. Come l'alba al tramonto, quando il sole è in mare, si vanno a incontrare senza aver paure. Siamo due colori fatti abbracciare per dare vita a mille sfumature. Come l'alba al tramonto, quando il sole è in mare, si vanno a incontrare senza aver paure. Siamo due colori fatti abbracciare per dare vita a mille sfumature. Mille sfumature, mille sfumature, yeah. Siamo fatti strani, con pregi e difetti, giudizi e concetti molteplici, aspetti ci fanno diversi, in effetti sai che non siamo mai perfetti. Però c'è sempre qualcosa che di fatto ci rende incompleti. Corriamo senza aver posa, bramiamo la felicità e i suoi segreti. Non vivo su dei binari, colgo momenti straordinari. Quando tocco con un dito un cielo senza nuvole, solo io e te, diversi dalla moltitudine. Non è un'abitudine stare insieme, è come imprigionarsi con mille catene. Sai che a volte mi basta abbracciarti, sì, per sentirmi davvero bene. Davvero. Certe persone ti bruciano, vogliono qualcuno che le riscaldi. Poi dopo l'uso ti buttano, faticherai a tenere i nervi saldi. Non temere, può accadere un colpo sinistro del fato, ma meglio aver amato e perdere, come disse Fred, che non avere mai amato. Come l'alba al tramonto, quando il sole e il mare si vanno a incontrare senza aver paure. Siamo